Bufala in tavola di Nicoletta Carbone. Benvenuti, benvenuti alla Bufala in tavola. Quale appuntamento migliore per chiudere con gusto, me lo auguro, questa settimana che ha visto le bufale indiscusse protagoniste. Non si sente parlare d'altro, dalla politica alla cultura, dalla finanza all'economia, passando per la salute, e mi ci metto anch'io, ce n'è un po' per tutti. Evidentemente qualcosa sta cambiando. Questa sorta di dichiarazione di guerra alle fake news, dove ci porterà e soprattutto che cosa ci racconta? E perché proprio adesso, solo adesso, perché le bufale sono sempre esistite. Ma una notizia un po' originale non ha bisogno di alcun giornale. Come una freccia dall'arco scocca, vola veloce di bocca in bocca. E alla stazione successiva, dalla Piazza Reale le bufale si sono trasferite a quelle virtuale. Ci è sempre un po' piaciuto crederci o fare finta di farlo. Forse adesso siamo saturi, abbiamo passato la misura, ne abbiamo bevute o mangiate troppe adesso, proprio come succede dopo un pasto un po' troppo abbondante, generoso, abbiamo bisogno di un momento detox. In linea con noi il mio cercatore di bufale, Andrea Fontana, sociologo della comunicazione, autore di Io credo alle sirene, come vivere e bene in un mare di fake news, editore. Andrea, ciao, bentornato. Ciao Nicoletta, buongiorno. Senti Andrea, tu sei l'uomo del momento, ma su questo aspetto aprirò una parentesi in un'altra occasione. Ma dimmi intanto, ci hai visto lungo, che cosa sta succedendo? Ma sta succedendo una cosa molto importante e molto interessante, cioè da una verità data, da un cuoco, usiamo questa metafora alimentare, no? I cuochi sono le istituzioni, o erano le istituzioni politiche, mediatiche, scientifiche, che davano delle verità, si sta passando a delle verità personalizzate, in cui ognuno cerca, anche magari sbagliando, la propria verità. E quindi stiamo passando da delle istituzioni che preparavano dei cibi, verità uguali per tutti, a dei cibi verità che in qualche modo ci autodeterminiamo. È come se l'ondata antisistema, no? L'antipolitica si stia diffondendo a più campi del sapere, anche al campo giornalistico, a quello scientifico per esempio, e stesse portando un po' tutti verso la ricerca di sistemi alternativi per spiegare la realtà, visto che siamo in un momento di grandissimo e profondissimo cambiamento ed evidentemente le verità, lasciami dire, tra virgolette, istituzionali non ci bastano più. Tra l'altro, Andrea, tu nel tuo libro affronti il tema da un punto di vista inedito e originale. Cerco di sintetizzarlo. Viviamo in un mondo fatto di finzione positiva ed è la nostra mente a creare mondi immaginati, fake appunto, che ci coinvolgono poi socialmente. È questo un po' il tuo approccio, la tua lettura. Ho cercato di allontanarmi il più possibile dal dibattito vero e falso, perché lo ritengo molto sterile in questo momento. E quindi, parlando di fake news, ho provato a mostrare che le fake news sono una zona grigia. Dentro le notizie cosiddette false ci sono le notizie errate, deformate, nocive e ostili. Quindi oggi noi, quando parliamo di fake news, in realtà stiamo parlando delle notizie ostili, quelle che attaccano, aggrediscono certo. Le reputazioni individuali o aziendali, no? Ma in realtà le notizie false sono tutto il mare di conoscenza deformata in cui stiamo vivendo. E se facciamo di tutto un'erba un fascio, non capiamo due cose importanti che ho cercato di sottolineare nel libro. Prima cosa è che siamo noi oggi responsabili della deformazione delle notizie nei social media, nei nostri blog, ogni volta che linkiamo o scriviamo delle cose che non abbiamo verificato, diventiamo responsabili di una deformazione, a volte innocente, a volte no. E la seconda cosa è che quindi siamo tutti responsabili di quello che pubblichiamo o postiamo. Se non ci rendiamo conto di queste due grandissime questioni oggi, che ci rendono in qualche modo tutti come se fossimo degli esperti media, corriamo il pericolo di delegare la comunicazione e l'informazione a delle autorità esterne che prima o poi ci diranno che cosa dobbiamo credere e pensare, ma credo non salutare per la nostra dieta culturale, neanche democratica, ecco. A proposito di salutare, noi ci concentriamo sulle bufale che riguardano la nostra dieta, quelle che condizionano le nostre scelte alimentari, smascheriamo alimenti considerati miracolosi, rivalutiamo prodotti che ingiustamente sono finiti sul banco degli imputati accusati delle peggiori nefandezze e cerchiamo, come dico spesso, di riportare la verità nel piatto. È una bella sfida. Nel corso di queste settimane ho imparato che possiamo giocarci attivando però tutti i sensi, perché quando parliamo di alimentazione, quando parliamo di cibo, dobbiamo considerare che oltre ai dati, alle caratteristiche nutrizionali di un prodotto, dobbiamo fare anche i conti con quello che quel prodotto rappresenta per noi e anche con quello che sa trasmetterci. Probabilmente anche in questo veniamo condizionati. Il bello diventa anche buono. Senza dubbio, guarda, questo è un tema pazzesco, Nicoletta. Pensa all'estetica del cibo. Oggi c'è tutta una riflessione sul cosiddetto termine food porn, consentimi questo termine, no? Cioè sulla pornografia del cibo, che non ha nulla in realtà di pornografico, è la rappresentazione del cibo sia da un punto di vista visivo, sia da un punto di vista della condivisione sociale che ne facciamo, no? Sì. Incominciamo a mangiare con gli occhi e oggi tutta questa attività di visione del cibo e di rappresentazione visiva diventa importantissima. Questa cosa genera una sofisticata simulazione del cibo stesso. Penso per esempio i panini che vengono mostrati leggermente chiusi così possiamo sbirciarci dentro, i biscotti con il gusto equilibrato di frolla e con le gocce di cioccolato lucente quanto basta vicino a una candela fioca, il filetto con i chicchi di pepe del colore giusto, leggermente umido e ambrato, no? Quindi sono tutte escamotage che ci fanno passare dal piatto bianco, certo, nudo e crudo, alla percezione tattile attraverso la vista del cibo. Ti devo dire che mi hai già fatto venire l'acquolina in bocca, evidentemente ci casco anch'io, ma dobbiamo andare a sentire che cosa succede sulle strade e sulle autostrade. Vogliamo, ma torniamo. La bufala in tavola. Eccomi qua, sono tornata, insieme a me Andrea Fontana, il mio cercatore di bufale. Andrea, prima di salutarci, si apre un mese particolarmente ricco, incontri, feste, aperitivi, cene aziendali, apericene. Insomma, saremo quasi costretti alla fine di questa maratona ad allentare un po' la nostra cintura. Qualche consiglio che arriva dal nostro cercatore di bufale per non soccombere nel periodo natalizio a questa buffata anche di fake news? Sicuramente, guarda Nicoletta, qualche consiglio che cercherò di mettere in campo anch'io in prima persona. La prima questione è avere giudizio. Cercherò, mi ci metto quindi anch'io, di non buttarmi sul primo piatto o sulla prima informazione che incontro, perché tanto devo mangiare, ma cercherò di saper scegliere il cibo informativo o alimentare migliore per me. Il secondo consiglio è provare anche diversi tipi di piatti e di notizie, quindi cercare di consultare o alimentarsi attraverso diverse fonti. Cercherò di stare attento al budget, perché nelle feste siamo tutti spinti a spendere un pochino di più, ma forse possiamo cercare di focalizzarci economicamente comprando davvero solo quello che ci serve, e questo vale anche per le notizie che mettiamo nella nostra dieta culturale, invece di essere invasi da tutto, concentrarci. E poi dopo la buffata stare una notte o una mezza giornata a digiuno, perché è meglio cercare di, come dire, depurarsi, no? Tu prima parlavi di detox, anche da un punto di vista informativo, e quindi spegnere la TV, il tablet, gli smartphone, dedicandosi un po' a se stesso e agli altri o alle proprie passioni. Questo potrebbe sembrare facile, invece non lo è affatto, e quindi mi riprometto anch'io di farlo. Allora, poi ti interrogo per una prossima puntata. Grazie Andrea, buona domenica. A voi, buona domenica. La pericena non esiste. Ne siete convinti? Ne è convinto Federico Francesco Ferrero, medico, chirurgo, nutrizionista, giornalista gastronomico, che è in libreria con La pericena non esiste, un manuale che fa il caso nostro, perfetto, proprio con un tempismo straordinario, per districarci tra feste, aperitivi, cene di lavoro, cerimonie e quanto ci offre l'odierna vita sociale. È in linea con noi alla Bufala in Tavola, buongiorno! Buongiorno a lei, buongiorno e buona domenica a tutti. Il manuale che non c'era, mi è molto piaciuto il suo libro, dicevo tempismo straordinario perché davvero ci darà una mano. E poi mi sono piaciute anche le incursioni di Paolo Massobrio, che è un giornalista, un critico gastronomico, che interpreta un po' la parte del paziente tipo o del lettore tipo, di quello che le propone sempre i se e ma non è possibile, ma allora come faccio? Guardi, questo libro risponde proprio all'alibi dei miei pazienti innanzitutto, che mi dicono non è possibile che io riesca a seguire un regime alimentare sano perché mangio sempre fuori casa, ed è vero, mangiavo sempre fuori casa tutti, ma Paolo Massobro ed io più o meno facciamo lo stesso numero di pasti fuori casa all'anno, che sono sicuramente più di 300 all'anno. E devo dire, anche lui, convinto da questo libro, si è messo a dieta, tra virgolette, e infatti ha perso molti chili e sta molto meglio, quindi è anche lui un primo dei testimonial di questo libro. La pericena va molto di moda, soprattutto tra i ragazzi, ma non solo. Lei scrive: non esiste dal punto di vista storico, nutrizionale e del sapore. È un pasto finto, inutile, talvolta vergognoso e dannoso per chi lo pratica, remunerativo per chi lo organizza, inutilmente triste per chi lo consuma e soprattutto fa ingrassare. Purtroppo è proprio così, perché è il tentativo di mettere insieme un drink molto calorico formato da un superalcolico con un pasto di sostanza, la cena, al minor costo possibile. E quindi quelli che vengono proposti sono semplicemente carboidrati con alto indice glicemico ma basso potere nutritivo, molti grassi, superalcolici, spesso di scarso livello, scarsa qualità, e tutte queste cose insieme producono una sola cosa, un eccesso di energia che si traduce in eccesso di trigliceridi, che si traduce in grasso ciccia, per dirla com'è. Ma dottor Ferrero, adesso si apre un mese in cui, altro che apericene, se siamo invitati o vogliamo farci un aperitivo con gli amici, nel suo libro lei dà anche consigli molto pratici, bacchetta, ma dà anche delle indicazioni per vivere una vita anche sociale, per concedersi anche i piaceri del cibo, ma rimanendo in forma. Che aperitivo ci possiamo permettere? Ma guarda, innanzitutto bisognerebbe capire quando va fatto l'aperitivo, perché prendere una vodka martini tutti i giorni prima di cena non è una buona idea, che non è sana, non da adesso, non lo è mai stata. Il caro Ernest Hemingway non era in ottima salute. E quello che dovremmo fare con l'aperitivo è forse consumarlo a metà della giornata, quando si esce dall'ufficio, e cioè più o meno verso le 5 del pomeriggio. Il problema qual è? È che la gente non esce più alle 5 del pomeriggio. In Italia, che è lo stato con uno dei più bassi livelli di produttività in Europa, purtroppo incarceriamo le persone al tavolo dell'ufficio fino alle 7:30 di sera, e allora quando uno esce per necessità deve fare tutto insieme, aperitivo e cena. Se proprio vogliamo fare un aperitivo, a questo punto la cosa migliore è cercare di innanzitutto introdurre un po' di fibre, un po' di verdure al nostro corpo affamato da tutta la giornata, in maniera che non sequestri tutta l'energia immediatamente in grassi. E quindi un buon bicchiere di vino, possibilmente a basso grado, con delle verdure e una fetta di pane integrale, ad esempio, sono un'ottima maniera per, tra virgolette, spezzare la fame, o come dice l'etimologia, da aperitus, aprire lo stomaco alla cena. Il libro è composto di 10 capitoli, sono diviso in ognuno, lei analizza una situazione particolare, dalla colazione alla pausa pranzo, poi il ristorante, la pericena, le cene di lavoro, le feste, la notte, le vacanze e la domenica. Noi alla domenica ci troviamo alla bufala in tavola, intorno a un tavolo, e anche sul pranzo della domenica lei si intrattiene il suo lettore con una riflessione molto interessante. Partiamo dal pranzo della domenica, siamo quasi pronti per sederci a tavola. Guarda, il problema del pranzo della domenica è che ha trasformato quella che era una ricorrenza, cioè un cibo speciale, qualcosa che si mangiava soltanto nelle feste comandate, quindi un dolce, una carne, una pasta speciale, nell'insieme di tutte queste portate servita all'interno di un unico pasto. Quindi abbiamo 5 antipasti, 2 primi, 3 secondi, 4 dolci, e c'è poco da ridere, perché in realtà in molte famiglie di amici del sud, dove le mamme e le nonne cucinano benissimo, si mangia veramente così alla domenica e ci si alza distrutti da tavola, non felici. È vero, distrutti e non felici. Dottor Ferrero, noi abbiamo letto in lungo e largo il suo libro, l'abbiamo saccheggiato, ne abbiamo così selezionato alcune frasi da cui partiremo per alcune considerazioni, perché alla bufala in tavola vogliamo smascherare le bufale, cercare di motivare a cambiare degli atteggiamenti, dei comportamenti, dei modi di fare, di gestire la nostra dieta, che non portano a nulla se non ad appesantire il nostro giro vita, ma togliendo anche sapore alla nostra vita. Quindi faremo un viaggio un po' lungo il suo libro per raccontare anche un po' agli ascoltatori il taglio che lei dà a questo manuale, che è un manuale che aiuta proprio il lettore a districarsi e soprattutto ad aprire gli occhi. Adesso noi facciamo una pausa, lei è pronto? Sarà una sorta di maratona, dottor Ferrero. Va bene, speriamo di sopravvivere. Ma sono certa, perché avrà fatto un'ottima colazione stamattina? Sì, questa mattina, guarda, dico anche cosa ho mangiato. Sì, e poi voglio sapere anche cosa sta preparando per pranzo. Va bene, glielo saprò dire. Allora, iniziamo con la colazione e dopo la pausa andiamo con il suo pranzo, ma poi la interrogo. Va bene. Guarda, io stamattina mi sono svegliato qui nel Chianti e ho fatto colazione con una buonissima fetta di pane passato sulla gratella del forno, un pane fatto da grani antichi con un indice glicemico molto basso, un sapore straordinario fatto da un grande artigiano, e una fetta di un salame molto magro, uno dei più magri d'Italia, fatto da un contadino che utilizza maiali di cui prende solo la gola, e sono maiali che mangiano soltanto mele e ghiande, e poi una mela dell'albero e due fettine di pera. Ecco, questo è quello che ho mangiato questa mattina, che è una colazione speciale, la colazione della domenica. Ecco. Direi una colazione da re. Non è vegetariano lei, questo è un altro... No, io non sono vegetariano, anche se mangio per la maggior parte della mia dieta verdura, però non disdegno una fetta di salame ogni tanto, certo, oppure una bistecca eccezionalmente. Voglio dire, non voglio la seguire dieta nessuna varia... religione alimentare. Ecco, varia ed equilibrata. Torneremo, poi voglio sapere che cosa sta preparando per pranzo, ma soprattutto andremo a leggere qua e là nel libro, nel nuovo manuale di Federico Ferrero, quasi una sorta di libro in pillole. A tra poco. Benvenuto nella tua auto. Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto. Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus. Dibidi dobidi DAB. Anche Radio 24 è in Digital Radio. State ascoltando un programma offerto da Aceto Balsamico di Modena del Duca, per un Natale al vertice del sapore. La bufala in tavola. Sono tornata, siamo tornati. ho un ospite, naturalmente, il nostro ospite della domenica, il dottor Federico Francesco Ferrero, lo conoscete sicuramente perché l'abbiamo seguito anche in Masterchef, ma l'abbiamo anche letto sulla stampa e adesso stiamo leggendo un po' il suo libro, un manuale, La pericena non esiste, magri in salute tra aperitivi e cene fuori casa. Dottor Ferrero, ci eravamo lasciati con la colazione, ma io voglio sapere che cosa sta preparando per pranzo, per il suo oggi, pranzo della domenica. Oggi, visto che domenica, mangio la pasta e sto cucinando la pasta di semolato, quindi non di semola, una pasta che si potremmo chiamare semi integrale, di Giovanni Fabri, che è un piccolo artigiano, un po' brodosa col cavolo nero. Ecco, questo sarà sicuramente un piatto straordinario, perché la vera pasta assorbe pian pianino l'acqua, in questo caso il brodo del cavolo, e insieme alle verdure è un piatto unico, completo, straordinario. Quindi nell'acqua di cottura del cavolo lei butta poi la pasta? Sì, esatto. Mi sembra semplice, potrei farlo anch'io. Guarda, le dico ancora più semplice quello che lei pensa, perché lei, quando l'acqua bolle, butta la pasta, la fa cuocere a metà cottura, poi spegne, tappa, finisce la sua cottura, lei può dedicarsi a altre cose senza dover stare a controllare la pasta se sta un minuto più, un minuto in meno, e se la pasta rimane un po' di più, assorbe semplicemente un pochino del brodo. Poi scola tutto e rimane una pasta asciutta, leggermente umida, una bella grattugiata di formaggio se la vuole, non c'è bisogno di aggiungere nient'altro, è un piatto completo se vuole un po' d'olio a crudo. Perfetto, allora abbiamo sbirciato nella cucina del dottor Ferrero, adesso come promesso sbirciamo nel manuale e abbiamo così preso alcune frasi da cui partiremo per chiedere al dottor Ferrero di darci delle indicazioni, dei consigli, e partirei proprio, lei mi ha citato la pasta, partiamo dalla dieta mediterranea e da un piatto della dieta mediterranea di cui lei parla. Nella dieta mediterranea la pizza c'entra molto poco. Il piatto ideale sarebbe invece una gran fondina di verdura dell'orto con un pezzetto di formaggio, due acciughe fresche e un pezzo di pane integrale. Dottor Ferrero, mi toglie la pizza? Guardi, purtroppo no, con la questo dieta non mediterranea... posso. No, non c'entra nulla, la pizza è buona, si può mangiare, ma non è l'alimento quotidiano. Quello che l'ho descritto, il mio pasto domenicale, è invece la dieta mediterranea, quindi calorie da cereali semi integrali, tantissima verdura fibrosa, ad esempio il cavolo, un po' di formaggio che adesso non vorrebbero più farci mangiare, non si sa come mai, visto che nella dieta mediterranea ha dimostrato di essere uno degli alimenti legati alla longevità, e poi un pochino, poco, di olio extravergine d'oliva a crudo. E la maggior parte del cibo a volume, non a calorie, era costituito dalla verdura, perché le ricordo che la pasta comunque veniva consumata anche in Calabria Nicotera, città che ha dimostrato di avere i più alti indici di longevità e il minore incidenza di malattie cardiovascolari, proprio seguendo questa dieta, era consumata una volta a settimana, perché il grano era cosa preziosa già allora, e quindi le calorie venivano invece dal pane che veniva consumato, un pezzetto pane semi-integrale o integrale. Dottor Ferrero, e la pizza? Allora, la pizza però mi è rimasta un po' allora la voglia della pizza. La pizza non va fatta con la farina 00, che tra il resto è un'invenzione assolutamente moderna. La pizza va benissimo, ma va fatta esattamente con questi tipi di farine, che sono delle farine appunto semi-integrale da grani, diciamo, adeguati, non uso la parola antichi perché non vuol dire niente, diciamo da grani che non siano stati geneticamente modificati, che siano grani ancora con un alto contenuto nutrizionale e un basso contenuto di glutine. E poi su questa pizza bisogna poi metterci o sopra o vicino delle verdure. E quindi questa è la regola. Ecco, un'intera pizza tutti i giorni non va bene. No, certo, però proprio per tornando al nostro mese di dicembre in cui vedremo gli amici, cosa si fa? Si va a mangiare una pizza, no? Ecco, lo so, allora... ma questa cosa non è corretta, le spiego perché sta rovinando intere generazioni di studenti che a pranzo, invece di andare a mangiare dalla nonna o dalla mamma come abbiamo fatto noi, ma ce le avevamo le mamme e le nonne che a casa ci aspettavano. Adesso le mamme lavorano e i ragazzini vanno a casa, si fanno da mangiare da soli oppure mangiano là dove trovano. Esatto, ma se abbiamo fatto tutto questo lavoro legato all'alimentazione e ne parliamo così tanto, bisogna che spendiamo un po' di tempo anche per educare i nostri figli, che a una certa età, come se sono capaci di uscire da soli con gli amici, andare a comprare la pizza fatta con farine ignobili e grassi schifosi dell'angolo, sono anche capaci di andare a casa e condirsi un pochino di cavolfiore e mangiare un pezzo di pane integrale ben fatto con un buon grano da un buon panificio della stessa via. Ecco, è un problema sempre di educazione, faccio un passo indietro, di informazione, di educazione e di cultura. Allora, e noi proprio per cercare così di aprire la nostra mente continuiamo a saccheggiare il manuale del dottor Ferrero, peschiamo, sentite questo, avete sentito una sorta di ruota e poi magicamente paf, la frase che abbiamo rubato dal libro e che ispirerà il dottor Ferrero per darci un altro suggerimento e anche per sgridarci un po', perché lei non le manda dire, dottor Ferrero? No, di solito preferisco dire le cose come stanno, sa, perché se si diventa complici in qualsiasi cosa c'è sempre una scusa per non fare le cose. Bisogna dare una regola. Alle regole, naturalmente, sono previste tutte le deroghe e le eccezioni. Quindi va benissimo che ci siano delle giornate speciali, dei pasti speciali, ma se questi pasti speciali diventano quotidiani e non sono più speciali, più del 70%, lei capisce che non c'è più nessuna regola. No, ma ci arrivo anch'io. Oppure c'è una regola sbagliata. Sorprendentemente, andiamo. Provate a evitare l'olio sulla carne, sul pesce, su un mollusco crudo e vi convincerete dei limiti del grasso. Dottor Ferrero, ma allora, l'olio extravergine d'oliva viene presentato sempre come un farmaalimento perché ha tante proprietà importanti per la nostra salute. Perché lei dice provate ad evitare l'olio sulla carne e vi convincerete dei limiti del grasso sulla carne o sul pesce o su un mollusco crudo? Perché guardi, grassi animali e vegetali sono difficilmente riducibili in una soluzione perfino in laboratorio, si figuri in tavola. La carne ha il proprio grasso, non c'è bisogno di aggiungere un ulteriore grasso e così il pesce, se lei fa un brodo di pesce e lo lascia in frigo, vede che si coagula perché è il pesce contiene il proprio grasso oltre al collagene naturalmente. Quindi se si fa un pesce bollito oppure un pesce al forno basta assolutamente lasciare un po' di umidità e gustarsi il grasso del pesce senza aggiungerne un altro ulteriore. E l'olio extravergine d'oliva, grandissimo e meraviglioso alimento, lo metteremo su qualcos'altro, lo metteremo su una verdura ad esempio. Non c'è che l'imbarazzo della scelta e noi scegliamo un'altra frase. Nelle cene di lavoro, il mio consiglio è di concentrarsi sul vero motivo per cui si è lì, una ragione professionale. Allora, se domani a pranzo avete un pranzo di lavoro, oppure domani sera, dottor Ferrero, ricordatevi che... Che si è lì per lavorare, non per abbuffarsi di qualsiasi cosa senza pensare neanche che cosa si sta mangiando. Sa, poi per imitazione il capo ordina una cosa, la dobbiamo ordinare anche noi, poi si discute, si fanno altre cose e non si è attenti e si ingurgita a qualsiasi cosa. Ed ecco che queste cene di lavoro diventano i luoghi prediletti dove andiamo a prendere calorie senza soddisfazione, perché non siamo con i nostri amici, con la nostra fidanzata, con la moglie, con la famiglia, lì per mangiare, siamo lì per fare un'altra cosa e allora ci riempiamo la bocca di qualsiasi alimento che non viene neppure alla fine gustato. Le migliori alleate della dieta sono le feste. Nella maggior parte dei casi il cibo è talmente di poca qualità che rinunciarvi non è un grande sforzo. Dottor Ferrero, in questo mi trovo assolutamente d'accordo, quindi ci auguriamo di avere tante feste, no? Perché così recuperiamo la linea. Tutti dicono che questo periodo natalizio è terribile, un sacco di buffet, di aperitivi, di festicciole, di ricorrenze. È l'occasione migliore per non mangiare. si mangia una verdurina, si prende un bicchiere di vino, se lo si fa durare tutta la serata meglio ancora, e ci si dedica al motivo per cui si è lì, cioè provare a divertirsi. E se non c'è nulla da divertirsi, allora non è una festa, è meglio andare a casa, ecco. Comunque, in ogni caso, la linea ci guadagna, e forse sì, anche le relazioni. Siamo denutriti, ecco. Ecco, certo. Forse siamo denutriti di relazione, denutriti di parole. Allora, se evitiamo di riempire la bocca di cibo a volte inutile, ecco, forse possiamo riuscire a parlare e scoprire, ecco, magari. Anche perché non si dire. Può parlare con la bocca piena, ma esatto. Ci sono persone che riescono a fare entrambe le cose. Orrore, andiamo. La salvezza a tavola sta nell'out-out. Eccola qui, l'out-out. Oh oh. Guardi, la salvezza nella vita sta nell'out-out, perché se vogliamo essere soddisfatti, e soddisfatto e sazio hanno la stessa origine, satis, abbastanza, ne ho abbastanza, l'unica nostra opportunità è quella di provare a realizzare il nostro desiderio. Prima bisogna trovarlo e poi provare a realizzarlo, e realizzare un desiderio vuol dire fare una scelta. Scelgo o questo o quello, e lo vediamo nei bambini. Se i bambini lasciamo sempre prendere e questo e quello, piangeranno comunque. Se diciamo puoi avere o questo o quello, potranno essere magari delusi dalla loro scelta, ma saranno comunque più sicuri e più felici. Ecco, sull'importanza della scelta ho dedicato proprio una diretta video che potete andare a rivedere con un mental coach, Giovanni Gabrielli. È venuta una cosina interessante, ma io chiuderei, dottor Ferrero, con... Colazione, sesso e una camminata di 30 minuti a passo veloce non dovrebbero mai mancare tra le attività quotidiane. Anche durante le feste. Dottor Ferrero, salutiamoci con un commento su questa frase. Guardi, siamo così distratti che ci siamo dimenticati di essere degli esseri umani, in famiglia, da soli, nelle coppie. Innanzitutto colazione, sarebbe bello farla con le persone che amiamo. Ed è la seconda cosa da fare è stare con l'altra persona che dovremmo amare, cioè noi stessi, l'altro noi stesso, e quindi passare almeno mezz'ora tra di noi facendo una passeggiata a passo veloce, che ci permette anche di pensare, non stare tutto il giorno al cellulare, e poi non ci dimentichiamo il sesso, che alla fine anche questo viene relegato come evento eccezionale ogni tanto, magari alla domenica. Mentre abbiamo trasformato in un pasto domenicale qualsiasi pasto della nostra esistenza. Ecco, allora forse sarebbe meglio ridare il peso giusto alle cose e ricordarci che ci sono delle attività fisiologiche che fanno parte della quotidianità, ce ne sono altre eccezionali che fanno parte dell'eccezione, e tra queste c'è la grande abbuffata, che non è da demonizzare, ma deve essere appunto sporadica. Dottor Ferrero, grazie per essere stato con noi, è stata una bella chiacchierata, mi sono anche divertito, ho imparato tante cose, quindi io spero che lei venga presto a trovarci qua alla Bufala in Tavola, magari mi porta qualche cosina di buono, mangiamo qua, chiacchieriamo, mi bacchetta un po', ma perfetto. Alla fine si sta bene. E cucino la pasta, che come vede mangio anch'io volentieri. Volentieri, allora l'aspetto per un buon piatto di pasta, però cucina lei. Cucino io senz'altro, adesso grazie. Prendo qua un pacco nel Chianti e glielo porto. Va bene, l'aspetto. Intanto lei si incammini, grazie, e noi invece ci incamminiamo e andiamo a sentire che cosa succede sulle strade e sulle autostrade, e poi parliamo di alghe. Sì, il nostro appuntamento Senti come mangio, andiamo in fondo al mar. Ogni giorno milioni di tonnellate di merci viaggiano nel nostro paese. Ovunque, dai porti alle industrie, fino alle nostre case. Noi vi raccontiamo questo mondo in perenne movimento con uno sguardo rivolto all'intera filiera dei trasporti, via terra e via mare. Una mobilità avviata sulla strada dell'intermodalità e quindi del rispetto dell'ambiente. Su Radio 24, lunedì alle 13.45, hashtag Autotrasporti con Andrea Ferro. Sabato alle 13.15, Container con Massimo De Donato. La bufala in tavola. Ariel, Ascoltami, il mondo degli umani è un pasticcio. La vita sotto il mare è meglio di qualsiasi cosa abbiano lassù. Le alghe del tuo vicino ti sembrano più verdi, sai. Sì, parliamo di alghe, senti come mangio, l'appuntamento in cui cerchiamo di farci consigliare il modo migliore per portare a tavola il gusto e la salute. In linea con noi oggi ci aiuta il professor Giovanni Scapagnini, professore di biochimica, esperto dei meccanismi biologici dell'invecchiamento all'Università degli Studi del Molise. Buongiorno. Buongiorno. Questa domenica la porto con me in fondo al mar. Sì, è molto piacevole come viaggetto. Che le sembra? Ecco, perché io voglio parlare di alghe. Professore, intanto lei mi faccia capire bene, perché noi diciamo alghe, mi verrebbe da pensare, non so, alle verdure del mare, ma forse sono le piante. Mi sembra che con questo nome noi identifichiamo tante cose diverse tra loro, no? Sì, le alghe sono, da un punto di vista biologico, organismi molto semplici, ma si distinguono anche, diciamo, nella nostra, diciamo, accezione più generale, nelle macroalghe, che sono quelle che noi normalmente pensiamo le verdure del mare. E poi c'è un'infinità che in termini di massa biologica forse è anche maggiore, che sono le microalghe presenti non solo poi nell'acqua marina ma anche nell'acqua dolce, quindi anche i fiumi e i laghi sono pieni di questi piccolissimi esseri che sono totalmente autonomi da un punto di vista, diciamo, biologico, perché come le piante sono in grado di usare il sole per fare la propria energia e sono una risorsa nutrizionale estremamente interessante. Che cosa hanno le alghe di così particolare che non hanno ad esempio le verdure? Allora diciamo che l'uomo deriva come tutti gli animali dal mondo vegetale. Il mondo vegetale è nato nel mare, quindi sono degli esseri tendenzialmente molto antichi e sono, come dire, hanno conservato al loro interno sostanze che si sono smarrite durante l'evoluzione sul mondo terrestre. Quindi diciamo, da un punto di vista della presenza di sostanze particolari potenzialmente molto utili per la nostra biologia, sono un piccolo tesoro. Un tesoro tutto da scoprire, perché la quantità di varietà di alghe è realmente infinita e soprattutto se ci rivolgiamo a quelle marine, appunto degli abissi, la parte più intrigante, diciamo, del nostro esplorare il mondo delle alghe, forse ancora alcune specie non sono state neanche scoperte, perché ovviamente l'oceano è una delle zone più inesplorate del nostro pianeta. Sicuramente noi siamo più abituati a confrontarci da un punto di vista nutrizionale con le microalghe, perché negli ultimi anni sono state considerate una possibile soluzione nel futuro alla fame del mondo, essendo, sebbene piccolissime, facili da coltivare e dall'altro lato molto ricche in proteine e vitamine, cioè due aspetti nutrizionali del nostro nutrirci molto molto rilevanti, perché spesso associati alla carne o a alimenti, diciamo, di origine animale, non sempre, appunto, in un futuro super affollato immaginabili per tutti. Quindi in un futuro alghe e insetti, la inviterò a casa a mangiare? Sì, sugli insetti. Perché diciamo, queste sembrano sempre i cibi del futuro, devo dire che sono contenta. Come dire, lo ha sancito in maniera molto seria, anche promuovendo tantissimi programmi per lo sviluppo di questo aspetto. Però diciamo che quello che riguarda per esempio molto più la mia attività di ricerca su aspetti funzionali del cibo è molto più collegato al mondo delle macroalghe, cioè quelle volte addirittura dei giganti enormi come il kelp, no? Metri e metri di foglie enormi che sono negli abissi, che contengono al loro interno sostanze che noi abbiamo un po' smarrito, diciamo, nella nutrizione riguarda il pianeta Terra asciutto, cioè fuori dall'acqua. Professore, le faccio una domanda, perché quando parliamo di alghe marine, quando parliamo di mare, pensiamo che è così inquinato, allora che qualità possono avere queste alghe? Lei che cosa risponde? Allora, le dico innanzitutto, gliela avranno fatta esempio, milioni di volte questa domanda. Sì, milioni di volte. Fortunatamente esistono delle zone che sono le zone dove tra l'altro c'è un'industrializzazione della raccolta, che sono il nord del Canada e soprattutto nella zona della Norvegia, che da un punto di vista della conservazione delle caratteristiche, diciamo, di purezza delle acque marine, siamo in una fascia super protetta. Una delle alghe più utilizzate, diciamo, per scopi nutraceutici, ma anche come biostimolante del terreno, addirittura mangime per gli animali da pascolo, si chiama Scophyllum nodosum ed è una pianta raccolta massivamente nord del Canada e Norvegia ed è super controllata in termini di inquinanti, quindi rappresenta una zona di raccolta molto molto protetta. Il bello delle alghe è che spesso è immaginabile la loro coltivazione, almeno in un futuro, quindi questo problema, nel momento in cui diventeranno una risorsa nutrizionale, dell'inquinamento sarà totalmente sormontato, scavalcato dal fatto che saranno coltivate in condizioni controllate, non necessariamente prelevate dall'oceano o dai laghi. Professore, lei è uno dei massimi esperti dei meccanismi biologici dell'invecchiamento. Lei studia i centenari. La dieta dei centenari ha a che fare un po' con le alghe, soprattutto perché nelle zone in cui sono presenti queste persone, no, che vivono così a lungo, sono delle zone spesso lontane da noi. Noi siamo un popolo di centenari, ma lei studia un po' i centenari di tutto il mondo. Sì, è una delle zone, diciamo, forse più famose, ed è tra l'altro quella dove io maggiormente ho concentrato la mia ricerca, che è a sud del Giappone, nelle isole giapponesi dell'arcipelago di Okinawa, hanno proprio questa caratteristica abbastanza unica da un punto di vista alimentare, perché il 20% della loro dieta è a base di alghe marine. Situazione condizionata molto dalla povertà di questi luoghi, almeno per loro storica. Sono come per noi l'insalata, allora. Esattamente, mangiano, voglio dire, i giapponesi mangiano, lo sappiamo benissimo, andando al sushi, mangiano un po' di alghe, le mettono nella zuppa, ci arrotolano il riso, però è una piccola quantità, come i coreani ed altre popolazioni, anche in Galles si mangiano le alghe, perfino qui in Sicilia si mangiano le alghe, però dalle nostre parti, però in quel caso i centenari di Okinawa mangiano tantissime alghe, esattamente come ne mangiamo le verdure. Allora le sostanze in esse contenute in qualche modo possono essere parte del loro segreto di longevità, evidentemente è tutto un argomento che ha portato a tantissimi studi in area nutraceutica, ma molte delle sostanze, come dicevo, contenute in questi organismi straordinari e primordiali, sembrano effettivamente avere un potenziale impatto sulla nostra biologia. Una famiglia molto importante di sostanze atipiche, nel senso non facilmente trovabili nel mondo terrestre, sono delle varietà dei carotenoidi. Noi siamo abituati al beta-carotene, no? Quello da cui poi deriva la vitamina A, sì, che troviamo nelle carote e moltissime altre frutte e verdure. Bene, nelle alghe esistono delle varietà molto particolari, una di queste si chiama astaxantina e recentemente si è scoperta che è una sostanza in grado di stimolare la crescita dei neuroni nel cervello degli animali e si suppone quindi anche dell'uomo, cioè fa in qualche modo favorisce un fenomeno che si chiama neurogenesi che permette un po' il rinnovo della popolazione neuronale del nostro cervello, una cosa veramente incredibile per una sostanza naturale. Questo è solo uno degli esempi, ce ne sono tantissimi altri, ci sono sostanze che si chiamano fluorotannini, misteriosissime e potentissime anche come immunostimolanti, fucoidani, tutti nomi un po' complessi, ma tutte sostanze che non troviamo nel mondo vegetale terrestre e che invece le alghe ci forniscono facilmente. E basta sapere dove andarle a cercare e come prenderle. Professor Scapagnini, la ringrazio per essere venuto con me un po' in fondo al mare, per averci raccontato questo mondo meraviglioso a cui mi piacerebbe dedicare tempo, e quindi la invito a tornare con noi a raccontarci un po' il bello e il buono che arriva da queste straordinarie, non possiamo chiamarle solo piante o verdure del mare, c'è molto di più ed altro, ma comunque, professore Scapagnini, io l'aspetto e la ringrazio. Intanto ricerca in corso. Buona domenica. Certo. A presto. Grazie. Buona giornata. Allora, per oggi è tutto. Allora, io torno, lo sapete, domani, perché a mezzogiorno vi tocca, sono la vostra salutare ossessione. Intanto statemi bene, mi raccomando, passatevi una buona domenica, vi voglio freschi e riposati domani a mezzogiorno per Obiettivo Salute e poi con Obiettivo Video. Buona giornata, buona domenica a voi e alle persone a cui volete bene, da Nicoletta.